E si è aperto alle 10 del mattino a Lingotto il 12° congresso della CISL piemontese con la partecipazione di 329 delegati in rappresentanza di 261.000 iscritti. Alessandro Ferraris, segretario uscente, si ricandida alla segreteria. Per domani mattina è attesa Anna Maria Furlan, segretaria nazionale del sindacato. La crisi